Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci insieme dopo la trasferta alla Fiera del Libro, siamo tornati negli studi di Milano e in regia abbiamo Peter Bescapè, in redazione ci siamo riuniti a Laura Vanossi. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Terapie fisiche, impariamo a conoscerle. Per una bocca a prova di bacio, evita di arrabbiarti. Yoga in ufficio. Terapie fisiche, ne avete sentito parlare, magari le avete provate o state per farlo. Oggi avremo modo di approfondire proprio questo argomento. Obiettivo della nostra puntata sarà quindi capire a cosa servono le terapie fisiche, che efficacia hanno e quali eventualmente limiti o rischi comportano. Ma cosa si intende per terapie fisiche? Lo chiediamo subito ai nostri ospiti che ve li presento. Il dottor Gianluca Melegatti, già lo conoscete, tra l'altro è qua in studio con me, sono molto contenta. Buongiorno, responsabile del centro di riabilitazione sportiva dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Noi speriamo sempre che lei ci porti qua qualche rugbista, ma viene sempre da solo. Arriveranno. In linea do il benvenuto e sono molto contenta che ci dedichi il suo tempo prezioso il dottor Felice Di Domenica. Buongiorno. Buongiorno ai radioascoltatori, a voi tutti. Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Ortopedica all'Istituto Gaetano Pini di Milano. Allora, dottor Di Domenica, sì, diciamo subito che cosa sono le terapie fisiche? Semplicemente è l'utilizzo dei mezzi fisici in terapia. Sì. Diciamo che nella storia abbiamo cominciato presto, dal mattone caldo ai fanghi, quindi quello che è mezzo fisico che viene utilizzato per avere un effetto terapeutico. Quasi sempre inizialmente è stato il calore, perché ha un effetto sul dolore, ha un effetto sulla contrattura muscolare e quindi dal calore inizialmente molto semplice, ripeto, dal mattone caldo, acqua calda, fanghi, siamo arrivati man mano a quella che è adesso l'utilizzo di luce laser, ultrasuoni, onde elettromagnetiche e che provocano attraversando i tessuti o un aumento di calore oppure un'iperemia attiva e tutto questo svolge poi sul sintomo dolore un effetto antalgico che poi sia dimostrato e qui oggi probabilmente affronteremo sì perché argomento. Oggi vorremmo proprio, siete in due, allora io vorrei fare questa trasmissione proprio giocandola sui pro e sui contro. Presenteremo quindi le terapie fisiche ad una, cercheremo di capire per come funzionano, qual è il loro meccanismo d'azione, per che cosa sono indicate, ma ne sottolineeremo anche i limiti, quindi efficacia ma anche tra virgolette effetti collaterali e controindicazioni. 824 0024 se volete intervenire, messaggi come sempre al 349 238 6666. Dottor Melegatti, il dottor Di Domenica ha citato terapie dai nomi tra loro diversi perché ha parlato di onde d'urto, di laser, possiamo aggiungere la magnetoterapia, ultrasuoni, però tutte insieme, anche se diverse, vengono messe nel calderone delle terapie fisiche. Quindi al di là delle differenze, quali caratteristiche comuni hanno? Beh, intanto hanno la caratteristica di essere efficaci nel trattamento di uno svariato ventaglio di patologie. Sì. Alcune più, alcune meno efficaci, come ha giustamente detto Felice Di Domenica, che saluto. Però dobbiamo naturalmente puntualizzare il fatto che ciascuna terapia fisica ha le sue precise caratteristiche e quindi interferisce sui tessuti biologici dell'organismo in maniera diversa. Ciascuna terapia serve per determinate patologie. Quindi patologie infiammatorie, post-traumatiche. Patologie infiammatorie acute, patologie degenerative, patologie post-traumatiche. Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori da casa se soffrite di una patologia infiammatoria, se avete subito un trauma, se dovete magari affrontare un intervento e il vostro medico vi ha detto proviamo prima con le terapie fisiche, magari in alcuni casi il dottor Melegatti potrebbero evitare il bisturi, però spesso alle terapie fisiche associate a quelle manuali si ricorre dopo un intervento chirurgico, quindi per qualunque vostro problema, se volete sapere se le terapie fisiche possono aiutarvi, se possono essere efficaci, se invece invece volete raccontarci come e perché non hanno funzionato, 824 0024, una puntata giocata tra le luci e le ombre, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E nel nostro spazio di benessere parliamo di labbra. Sembrava che l'era di quelle a canotto fosse tramontata, e invece è una moda, direi, molto dura a morire. Insomma, nonostante tutto quello che si vede, molte donne non resistono alla tentazione di riempire un po' le labbra, cancellando anche quel famoso codice a barra, quelle rughette ai bordi delle labbra in cui spesso finisce il rossetto. Ma allora, c'è un modo per mantenere le labbra fresche e giovani a lungo, oppure si deve comunque ripiegare sulle labbra canottone? Lo chiediamo alla dottoressa Serri, che è tornata a trovarci, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno. Buongiorno. Ma allora, le labbra canotto piacciono, oppure si finisce trattamento dopo trattamento ad avere delle labbrone a canotta? Questo io non l'ho ancora capito. No, le labbra canotto non riesco bene a capire a chi piacciono. A me non piacciono, e alle persone che conosco io non piacciono, però... e i trattamenti alle labbra non portano assolutamente alle labbra canotto, che vengono a chi le vuole. Anche l'iniezione di acido ialuronico all'interno delle labbra non fa venire le labbra canotto. Queste vengono solamente se si fanno in grosse quantità. Migliorare il contorno del labbro vuol dire riportare il contorno del labbro a come era quando si era più giovani. Con gli anni il contorno del labbro tende a scendere, la distanza tra labbro e il naso aumenta, per cui si fa semplicemente un contorno, il labbro si può leggermente rimpolpare, ma per renderlo come era, l'aumento di volume del labbro è tutt'altra cosa rispetto al ringiovanimento del labbro. Allora, parliamo del ringiovanimento. Lei accennava all'acido ialuronico? Parlavo di acido ialuronico perché è la sostanza riassorbibile, completamente biocompatibile, più utilizzata, va molto bene, funziona molto bene. Teniamo presente che per ringiovanire le labbra bisogna guardare non solamente le labbra, ma tutta la zona. Bisogna mettere a posto i denti, perché molte rughe delle labbra dipendono dalla dentatura. Bisogna correggere le pieghe della marionetta, che vanno dal bordo della bocca, dal bordo del labbro fino al mento, e che portano giù le labbra, perché quelle, se si fa una piccola piattaforma con un pochino di acido ialuronico e si tira un pochino su il bordo del labbro, ecco che immediatamente la bocca ringiovanisce, assume un altro aspetto. Senza bisogno di arrivare a degli interventi più invasivi. Certo. Per correggere il codice a barra ci sono delle tecniche che però prevedono anche l'imparare a parlare senza fare tutte quelle smorfie che portano alla formazione del codice a barra stesso. Eccola. Tutti le chiamano le rughe del fumatore, ma col fumo non c'entrano granché, se non che il fumo fa invecchiare precocemente e rende la pelle meno elastica. Quali sono i movimenti che facciamo, queste smorfie? Basta che mettere uno specchio vicino al telefono, oppure parlare davanti a uno specchio e guardarsi, e lì si vede immediatamente come noi atteggiamo la bocca. Se poi ci guardiamo quando siamo arrabbiati, rischiamo anche di spaventarci. È un'esperienza che io ho fatto e non mi sono piaciuta per niente. Allora, dottoressa Serri, parlare con la bocca morbida e senza fare tutte quelle pieghe smorfie che poi portano alla formazione di rughe permanenti. Dottoressa Serri, invece, per prevenire queste rughe e per mantenere le labbra giovani, vanno bene le creme, come ci sono quelle per il contorno occhi, ci sono anche quelle per il contorno labbra, ma che caratteristiche devono avere? Devono avere delle caratteristiche di creme viso normali, certamente. Oggi l'industria cosmetica induce a comprare un cosmetico specifico per ogni distretto del corpo e del viso. In realtà quello che è sufficiente, e come consiglio generico si può dare, è un ottimo prodotto per il viso, che comprenda anche una protezione solare, adesso che stiamo andando incontro all'estate, prodotti adatti al proprio tipo di pelle e dei nutrienti labbra che non contengano vaselina, perché la vaselina vaselina non nutre, quindi non contengano petrolatum, ma contengano oli vegetali, burro di karité e delle sostanze realmente nutrienti. Dottoressa Serri, la ringrazio per essere stata con noi. Terremo a mente il suo consiglio di parlare ogni tanto davanti allo specchio per vedere tutte le smorfie che facciamo con le nostre labbra. Intanto le do appuntamento per la prossima settimana per occuparci insieme a lei di un'altra zona del nostro viso. Parleremo di zigomi. Dottoressa Serri, buona giornata e grazie. Grazie, a presto. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci del tema del giorno. Oggi la nostra puntata è dedicata alle terapie fisiche. Sono terapie diverse che vengono proposte come trattamento di patologie infiammatorie, post-traumatiche e degenerative. In linea con noi abbiamo il dottor Felice Di Domenica, in studio abbiamo il dottor Gianluca Melegatti e in linea abbiamo Enzo da Bologna, a cui diamo la precedenza prima di affrontare le prime terapie fisiche di cui ci occuperemo in trasmissione, che sono le onde d'urto. Magari a Enzo interessano. Enzo, buongiorno. Buongiorno, ascolti, intanto buongiorno anche ai suoi ospiti. Sì. Niente, volevo chiedere questo, io ho fatto uno strappo a un tendine, che penso che il nome dovrebbe essere, un po' l'emozione, spero di non sbagliarmi, della zampa d'oca. La zampa, corretto, è esiste. Corretto, esiste. Dov'è, certo. Dov'è, dottor Melegatti? Nella parte interna del ginocchio, un po' sotto la rima articolare. Ecco. Esatto, proprio la parte interna del ginocchio. Ho iniziato una terapia di 10 sedute di laser, ma non ho laser pulsante, ma non ho visto grossi risultati. Adesso ho iniziato a fare invece gli ultrasuoni. Volevo sapere se era corretto l'approccio e se c'era anche qualcosa in più da fare. E se potevo chiedere anche cos'era più efficace, secondo la vostra casistica, per l'epicondilite. Allora, tantissime domande. Innanzitutto, prima di rispondere a Enzo, abbiamo l'opportunità di chiedere ai nostri esperti che cosa si intende per laser terapia e che cosa si intende, lui faceva riferimento agli ultrasuoni. Allora vi distribuisco le domande. Dottor Di Domenica, gli ultrasuoni che cosa sono e quando sono indicati? Beh, gli ultrasuoni in terapia, diciamo, sono da tanti anni che noi utilizziamo. Sono delle onde sonore che di alta energia e di frequenza altissima. Cosa hanno? Innanzitutto si formano stimolando il cosiddetto effetto piezoelettrico del quarzo, sono nati così, cioè facendo una variazione di corrente su una lamina di quarzo, il quarzo vibra e emette ultrasuoni. Sì. Questi ultrasuoni, attraversando i tessuti, e qui li attraversa in base alla struttura del tessuto, più sono ricchi di acqua e meno attraversano, più meno acqua, più veloci. Però sì, quello che interessa a noi, questi pochi elementi che ho detto di fisica, ma interessa a noi che attraversando questi tessuti hanno un'azione sul dolore, danno un'iperemia attiva e quindi azione antinfiammatoria e azione sul dolore. Ora, sugli ultrasuoni sono da tanti anni utilizzati in terapia, però io mi sono rivisto un po' di letteratura e facendo una valutazione sui livelli di evidenza, purtroppo non è che non funzionino, ma purtroppo i lavori che sono stati fatti non hanno una validità scientifica tipo A, perché sono classificati A, sì, B e C, variano su B e C. Quindi, diciamo, la nostra esperienza ci dice che possono funzionare, funzionano, però l'evidenza scientifica forse no, va indagata meglio. Quindi abbiamo già visto anche i limiti, no, degli ultrasuoni. Certo. Laser invece, che così poi veniamo alla risposta? È un raggio di luce monocromatico, è la luce praticamente che viene utilizzata sempre per ottenere lo stesso effetto, antinfiammatorio, antiedemigeno. E parlare di laser terapia, diciamo, comprende tantissimi tipi di laser, che va da un laser soft, leggero, ad un laser di alta potenza. Sì. Leggeri tipo elio neon, possiamo arrivare invece ad alta potenza neodimio, CO2, FP3, sono tantissimi. Quindi parlare di laser come dire faccio una puntura, insomma. Certo, è un po' generico. Dottor Melegatti, al nostro ascoltatore che appunto chiedeva quale di queste terapie potesse funzionare meglio sulla sua zampa d'oca. Zampa d'oca, tendinite della zampa d'oca. Ma intanto bisognerebbe, come giustamente ha detto il dottor Di Domenica, capire che tipo di laser è stato proposto, se è un laser ad alta potenza oppure se è un laser tra virgolette soft, vale a dire più leggero. Ma direi che entrambe le terapie possono essere indicate. Gli ultrasuoni, anche gli ultrasuoni sono una terapia indicata a distanza di tempo dall'evento acuto. Allora direi che una tendinopatia, se non è in una situazione acuta, può trarre vantaggio dall'applicazione di ultrasuoni, ma non solo da quelli. Non dimentichiamoci che le terapie fisiche danno il meglio di sé quando vengono inserite in un discorso più ampio fatto di anche trattamento manuale. Quindi all'ascoltatore io dico che gli ultrasuoni vanno bene, però consiglierei all'ascoltatore di contattare il suo medico oppure il terapista che lo sta seguendo per introdurre anche un lavoro manuale per ricondizionare i muscoli che sono poi che sono in continuità con i tendini infiammati. Quindi questo è un concetto che dobbiamo portarci a casa. Certo. Non esiste la terapia fisica che da sola può risolvere il nostro problema, o almeno meglio sarebbe combinare più terapie fisiche insieme a terapie manuali. E questo mix combinato, studiato su misura del paziente, che può portare ai risultati. È perfetto, quello che si dice l'individualizzazione del trattamento, è esattamente così. Allora, Mauro da Rovigo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, sì. Allora, niente, la mia domanda è molto semplice. Io 10 anni fa ho subito un incidente. Sì, noi poi pensiamo che siano sempre domande semplici. Chissà se poi con le nostre domande mettiamo in difficoltà i medici, Mauro. Penso proprio di sì. Bene, allora, siamo qua apposta per metterli in difficoltà. Allora, Mauro, venga la domanda. Allora, io ho subito una frattura del bacino. Sì. Con applicazione di 2 placche in titanio, poi una sublussazione con frattura del tarso, del metatarso e del cuboide del piede sinistro, sì. E mi è rimasta una sublussazione al primo metatarso, quindi praticamente ho l'osso fuori. Mi è stata consigliata come unica possibilità l'artrodesi dopo aver fatto magnetoterapia, laser terapia, eccetera, eccetera. Questo cosa comporta? Comporta che praticamente io continuo a fare sport in un certo senso, giocare a calcio, eccetera, eccetera, però logicamente dopo ogni attività il dolore è lancinante. Eh sì. Mauro, lei non riesce a stare un po' tranquillo, dopo tutto quello. Non se ne parla nemmeno, perché non si è fatto mancare nulla e non vuole fare l'intervento però. No, mi è stato sconsigliato perché data la mia età, io l'incidente l'ho subito 10 anni fa, mi hanno detto che l'artrodesi mi avrebbe reso un pochino zoppo, e questa è una cosa che sinceramente uno vuole evitare, certo. Dottor Melegatti, una domanda difficile quella di Mauro. Mi dispiace per Mauro, nel senso che la situazione non deve essere piacevole per una persona attiva. Allora, io direi che l'artrodesi, come giustamente gli è stato detto, può essere una soluzione, ma è una soluzione poco gradita. Che cosa intendiamo per chi non è addetto ai lavori? Il bloccare un'articolazione e renderla quindi immobile, quindi senza più la possibilità di avere il movimento articolare. Questo vuol dire che senz'altro coinvolge lo schema del cammino e della corsa. Certo. Allora il consiglio che do a Mauro è quello di cercare di tirare il più in là possibile, cercando di gestire la situazione del dolore ancora con delle terapie fisiche, magari rivedere un attimo alcuni tipi di terapie fisiche non effettuati e chiedere consigli a un esperto per quanto riguarda la possibilità di effettuare magari terapie come infiltrazioni di acido ialuronico endoarticolare, che possono, lubrificando l'articolazione artrosica ormai, possono togliere un po' il dolore. E poi ad ultimo, proprio se le cose non migliorano dal punto di vista del dolore, riconsiderare davvero il discorso dell'artrodesi. Eccoci, siamo tornati insieme, terapie fisiche 800 24 0024. Allora, io parlerei delle onde d'urto. Tra l'altro so che voi due siete soci fondatori della Società Italiana Terapie con Onde d'Urto, per cui giochiamo in casa. Sono nate per frantumare i calcoli, ma vengono applicate con successo in campo ortopedico. Ma io direi, cerchiamo di procedere per ordine. Dottor Di Domenica, di che tipo di onde stiamo parlando? Cosa sono le onde d'urto? Sono sempre della famiglia degli ultrasuoni. Sì. Logicamente hanno delle frequenze diverse, molto alte, e quindi il loro effetto terapeutico varia in base alle lunghezze d'onda. Difatti possiamo parlare di onde d'urto di bassa o di alta potenza. Con le onde d'urto di bassa potenza, possiamo fare una terapia fisica sulle tendiniti inserzionali, sulle calcificazioni paraarticolari, su quelle che sono delle patologie muscolotendine, come parlava prima. Sì, anche me le chiama per nome, tipo il gomito del tennista. Bravissimo, l'epicondilite. Tra l'altro, rifacendomi al discorso degli ultrasoni che avevo iniziato prima, sì, uno dei pochi lavori che ha un'evidenza tipo A è l'applicazione di onde d'urto nell'epicondilite. Esatto. Quindi è dimostrata anche scientificamente, un lavoro che abbiamo fatto, se non sbaglio, con Gianluca anni fa. Esatto. Bene, questa è una buona notizia. Sì. Quindi voglio dire, l'epicondilite, la borsite calcifica della spalla, le tendiniti inserzionali, parliamo di tendinite achillea, sì, borsite achillea. Qua funzionano. Come dice? In questi casi funzionano. Beh, noi abbiamo una buona percentuale di risultati, si avvicina al 70-80%. Quanto deve durare in media un trattamento, dottor Di Domenico? E poi, dato che il dottor Melegatti sosteneva che di solito non si fa solo una terapia fisica, ma se ne abbinano più, certo, di più e si associano alle terapie manuali, certo, di solito le onde d'urto a che cosa vengono abbinate, se vengono abbinate? Posso portare la nostra esperienza? Innanzitutto, sì, le onde d'urto hanno, almeno il protocollo che facciamo noi, un trattamento una volta alla settimana per 3 volte. Questo è un trattamento, diciamo, sì, che 3-4 standard che noi facciamo sulle patologie muscolotendine. Vanno associate altre terapie fisiche, specialmente la kinesiterapia e specialmente nelle tendiniti, è molto utile, potenzia e migliora l'azione delle onde d'urto. Ecco, vogliamo spiegare anche che cos'è la kinesiterapia? Vorrei dare proprio un significato a tutte le parole che, sì, usiamo, perché chi le usa le conosce, ma per altri rimangono un po' delle parole che si sentono ma di, sì, cui non si conosce bene il, sì, significato. Che, sì, cos'è? Ha ragione. La kiné viene dal greco movimento, quindi terapia del movimento, la ginnastica. Bene, intesa volgarmente. Una ginnastica però fatta da persone, competenti che sanno il fatto loro, certo, come si dice. Certo. Mi premeva, scusi, sì, cioè, certo, mi premeva dire una cosa sulle onde d'urto. Perché anche i medici spesso prescrivono onde d'urto e non specificano se sono focali, non sono focali, cosa intendo dire? Che l'onda d'urto, per essere fatta, ha bisogno di una puntatura ecografica. Questo è fondamentale. Se non c'è il trattamento, se non c'è l'utilizzo e la puntatura ecografica, parliamo di altre cose. Per spiegarmi meglio, l'applicazione va fatta mirata bene, bisogna colpire bene, come un bombardamento. Certo, bisogna prendere bene la mira. Ecco, bravissima. Andrei a Francesco che ci chiama da Bari, 800-24-0024. Vediamo come possiamo aiutarlo. Francesco, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie per il servizio di pubblica utilità che fate. Io ho un problema legato ai talloni, soffro, praticamente mi sono formati dei speroni calcaneari. Sì. Mi avevano proposto, tra le altre che ho tentato con ultrasuoni o altro, ma con scarsa efficacia, mi avevano proposto le onde d'urto. Devo dire che un'applicazione l'ho fatta, una sola, sì, ma dolorosissima, e sentivo adesso in radio il dottore che consigliava anche la possibilità di farlo tramite ecografia, ma non è stato fatto così, evidentemente non è stato fatto bene. E poi se questa, quindi volevo sapere se la terapia è efficace, fatta bene, certo, come si può fare per venire il dolore, perché quello che mi ha un po' bloccato era... Certo, perché se sono... già il nome onde d'urto ci, no, ci mette un po'. Francesco ci ha già detto un limite, un lato negativo, certo, se vogliamo, delle onde d'urto, di cui noi parleremo, perché vogliamo sempre fare anche il dolore. Rispondiamo a Francesco, certo, intanto diamo qualche indicazione. Ma intanto voglio dire a Francesco che le terapie ad onde d'urto per lo sperone calcaneale o spina calcaneale sono una terapia di elezione, sono valide tanto quanto l'intervento chirurgico, ed è questo scientificamente validato. Quindi è una terapia che deve funzionare se è fatta bene, vale a dire se è fatta da personale esperto con delle attrezzature valide, onde d'urto focalizzate che rispettino un certo grado di intensità di onda d'urto, di trattamento, e che vorrei però sfatare anche il discorso del dolore. Non è detto che debbano sempre essere dolorose. Le onde d'urto, quando fatte da personale esperto con delle attrezzature valide, non sono così dolorose, sono delle terapie assolutamente tollerate da chiunque, perché sta alla abilità dell'operatore modulare queste onde d'urto e far sì che possa venire erogata la quantità di energia e i livelli di intensità di energia terapeutici. Quindi, dato che noi non abbiamo, dottor Melegatti, lei si immagina tutte le competenze per capire se chi mi fa le onde d'urto è bravo, se il macchinario è nuovo, se ho avverto dolore vuol dire che qualcosa non funziona, perché il dolore in genere c'è, ma deve essere un dolore sopportabile, non deve essere un dolore insopportabile. Il mio consiglio è quello di avvalersi di specialisti esperti, di scegliere onde d'urto focalizzate, sì, e poi abbinare, come lei diceva correttamente, alle onde d'urto anche una terapia diciamo funzionale di recupero del movimento e della elasticità dei tessuti che vanno colpiti. Oltre al dolore, quali altri limiti abbiamo nelle onde d'urto? Ma dunque, intanto non si può fare l'applicazione in presenza di infezioni della cute, in presenza di persone che hanno delle patologie della coagulazione del sangue, sì, o in persone che hanno avuto patologie tumorali nelle vicinanze della sede da trattare. Quindi queste sono le controindicazioni. Andiamo a Bologna, ci aspetta Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io chiedevo un consiglio, non sì, ho ancora iniziato nessun tipo di terapia, soffro di un'artrite deformante, sì, alle mani, che è limitata alle quattro dita, escluso il pollice, all'ultima, sì, falange praticamente delle dita, che si gonfia e si deforma. Ultimamente il dolore è sempre più forte e le dita esterne, cioè il mignolo e l'anulare di tutte e due le mani, sono sempre più colpite e faccio molta fatica anche a contrarle. Certo. Chiedo se c'è una terapia efficace, perché molti mi dicono che di terapia non ce n'è. Non ce ne sono. E allora chiediamo al dottor Di Domenica, ci sono delle terapie che fanno al caso di Roberto? È una bella domanda. Un'artrite deformante trae beneficio dalla terapia medica fondamentalmente, cioè di competenza reumatologica spesso, e quindi la terapia di base deve essere farmacologica. La scelta poi la deciderà il reumatologo, se cortisonici, FANS, eccetera eccetera. Comunque di base è questa, perché poi sono forme anche ereditarie. La terapia fisica però può essere di supporto a una terapia medica di base ben mirata. In che senso? Sul dolore, e quindi può ridurre quello che è il dolore articolare. Possiamo utilizzare in questi casi la laser terapia, un po' di magnetoterapia, la ionoforesi, eccetera eccetera, però è la kinesi terapia, per tornare al discorso di prima, cioè per evitare deformazioni in varo ago eccetera, la kinesi è fondamentale, però per il controllo del dolore e dell'infiammazione la competenza spetta al reumatologo, e poi noi possiamo di supporto fare terapia fisica, ecco. Vi anticipo che noi parleremo di artrite reumatoide proprio mercoledì, e quindi se volete saperne di più potete già iniziare a scriverci, e comunque non perdetevi la puntata. Siamo tornati. Dottor Melegatti, vogliamo parlare anche della magnetoterapia? Molti SMS stanno chiedendo di avere informazioni, funziona, per che cosa, la cervicale, post intervento, 824-0024, se intanto volete intervenire. Dottore. Sì, dunque è una terapia utilizzata da parecchio tempo, fin dall'antichità viene utilizzata in effetti, ed è l'esposizione dell'organismo a un campo magnetico di alta intensità anche e di bassa frequenza, e il principio è la capacità da parte di questo campo magnetico di fare oscillare le molecole d'acqua dell'organismo, e quindi riuscire ad agire a livello cellulare, modificando la permeabilità delle membrane cellulari. Lo scopo è quello di controllare il dolore e di risolvere l'edema, perché c'è proprio una sorta di lavaggio metabolico della zona infiammata, quindi contro l'infiammazione, contro l'edema e contro il dolore. E funzionano. Ed è una terapia per la quale ci sono pro e contro, come per tutte le terapie fisiche, è un po' sopravvalutata a mio parere, ma è una terapia che ha dimostrato anche a livello scientifico un certo valore quando viene utilizzata per delle indicazioni precise. In media quanto dura un trattamento? Bisogna distinguere il trattamento, per esempio, per i ritardi di consolidazione delle fratture, perché anche per questo può funzionare, è un trattamento molto lungo, di alcune ore al giorno, addirittura 7-8 ore al giorno. Mamma mia. Ci sono delle apparecchiature portatili che si possono utilizzare, ma invece trattamenti per problemi cervicali, tensione cervicale, sono trattamenti che si possono fare a giorni alterni della durata di 15-20 minuti. Dottor Di Domenica, lei affido l'elettroterapia, pro e contro, ma prima di tutto che cos'è? Già il nome ci dà qualche indicazione, sì. Ma... Sì. L'elettroterapia intendiamo a scopo antalgico o a scopo stimolante. Sì. A scopo antalgico, diciamo, sono l'utilizzo di correnti continue o correnti alternate che agiscono sul dolore. E le devo dire che le TENS, che praticamente è quell'elettroterapia più impiegata, ha quella che ha una ricerca scientifica più valida. Forse perché in America la usano tanto e quindi hanno fatto dei lavori. Quindi diciamo che le TENS sull'effetto sul dolore è stato dimostrato che ha una buona efficacia. Bravo. Per quanto riguarda invece altri tipi di elettroterapia, sono tantissimi, variano per forma, per frequenza, però diciamo che hanno un buon effetto antalgico e vanno, ripeto il concetto iniziale, cioè vanno associate insieme ad altre terapie fisiche, perché noi parliamo di cocktail di terapie fisiche, non possiamo fare solo una terapia, ma vanno associate ad altre. Se facciamo un lavoro scientifico, vogliamo dimostrare se funziona o non funziona, allora utilizziamo un solo tipo di terapia. Però poi nella pratica si associano. D'altra parte, noi per capirle dobbiamo tenerle separate, ma ribadiamo il concetto che poi il terapista le fa insieme, proprio per guadagnare il massimo da ciascuna di queste terapie. Limiti dell'elettroterapia? Limiti dell'elettroterapia, bisogna stare, se ci sono problemi neurologici centrali, sicuramente non è il caso, non è indicata. Controindicazioni se ci sono alterazioni della sensibilità periferica, in questi casi possiamo creare delle ustioni, possiamo sbagliare, ma in linea di massima grandi controindicazioni non ne hanno. Ad esempio i portatori di pacemaker però non possono farla, no? Sì, c'è come per la magnetoterapia, per la tecara, eccetera. Comunque però, il medico lo sa, perché dire una cosa però, che i stimolatori di nuova generazione sono ben protetti, cioè è giusto che non vengano fatte, però anche se dovesse succedere per ignoranza, per errore, non ci sono grossi rischi sulla vita del paziente, perché i nuovi stimolatori sono ben protetti. Allora, io a chiusura di questa trasmissione, in cui abbiamo parlato di terapie fisiche, abbiamo parlato quindi anche della loro azione antalgica, antinfiammatoria, se volete comunque saperne di più potete sempre scriverci a essere benessere@radio24.it. vorrei chiudere questa trasmissione con un po' di relax, soprattutto che vogliamo dare alla nostra zona cervicale, dove specie a lunedì mattina sentiamo tutto il peso della settimana. In linea con noi abbiamo Benedetta Spada, che è pronta a suggerirci un facile esercizio yoga che però ha il vantaggio di poter essere facilmente imparato, ma eseguito anche più volte nel corso della giornata. L'abbiamo sottolineato più volte l'aspetto dello yoga, che si possono imparare degli esercizi e fare a caso o magari anche in ufficio. Saluto Benedetta Spada, bentornata e buongiorno. Ciao Nicoletta, salve a tutti. Allora, che cosa ci proponi? Sì, tu giustamente hai rilevato appunto l'importanza di concederci sempre qualche piccolo esercizio, magari più volte durante l'arco della giornata, in qualsiasi momento, anche in ufficio. Sì. E questa mattina un semplice movimento di rotazione del capo, noi ci portiamo seduti in una postura comoda su di una sedia, magari chiudiamo gli occhi per qualche attimo e un istante portiamo l'attenzione sul ritmo del nostro respiro spontaneo. Poi lasciamo che nel primo inspiro che sopraggiunge, il possa ruotare delicatamente verso destra, come se con la coda dell'occhio volessimo rivolgere lo sguardo dietro di noi. Nell'espiro ritorniamo verso il centro e nell'inspiro nuovo che sopraggiunge ruotiamo il capo verso la spalla a sinistra. Ripetiamo questo semplice esercizio ogni qualvolta ci sentiamo un po' stanchi e appesantiti, magari proprio davanti al computer o perché no anche quando siamo in auto. Allora, ringrazio Benedetta Spada, cui do appuntamento domani con un altro esercizio. Adesso ci siamo occupati di colonna cervicale, di questo peso, di questo dolore, ma sappiamo che ogni giorno, no, rileviamo dei piccoli acciacchi, vediamo se con qualche esercizio yoga riusciamo, non dico a risolverli, ma a stare meglio. Quindi saluto e do appuntamento a Benedetta Spada domani, mentre ringrazio il dottor Di Domenica che è in linea con noi. Grazie dottore. Grazie. Gentile. È stato chiaro, ci ha aiutato a capire di più come il dottor Melegatti, che ormai è di casa Essere Benessere, che spero di incontrare presto. Dottore, grazie. A presto, grazie. Ci a voi. Ci porti qualche rugbista, per il piacere della redazione femminile. Allora ci contiamo, le inviteremo sicuramente presto. Io vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata, buon lunedì da Nicoletta Carbone.